Buonasera, bentornati in diretta dagli studi di Radio Fujiko. Come sempre per Mighty FM il venerdì sera c'è Claudia Mighty Mau. Dopo una settimana di assenza totale, non ho messo neanche una replica perché niente, per motivi di salute, ma adesso siamo in forma, in strada, rinvigorite anche dal fatto di aver scoperto che il 22 marzo, quindi proprio pochissimi giorni fa, cioè il giorno stesso in cui io ero incapacitata, è uscito un album che davvero aspettavamo con ansia, con eccitazione, in modo appunto molto elettrizzato, perché si tratta di una giovane, ma ormai direi anche abbastanza navigata artista. Si tratta della 24enne, credo quest'anno, londinese Doc Nilüfer Yanya, che abbiamo suonato nelle trasmissioni Mighty FM per due volte, nella puntata finale delle canzoni migliori dell'anno di Pitchfork del 2017 e poi anche nel 2018. Ed ecco che a marzo 2019 esce un disco e partiamo sempre con l'inizio. Thank you for entering your details and welcome to Way Health, our 24/7 care program. We are here for you, we care for you, we worry about you, so you don't have to. You have been granted temporary access to phase one of our preliminary care program. To continue, please choose from one of the following descriptions. I felt an abnormal discomfort from the light. I received some spots blindness from the light. There is a sense of being watched. There is a sense of being followed. I often feel alone and in deep paranoia. I often search for validation in others. Abbiamo fatto sentire abbastanza dell'inizio di questo disco, non abbiamo fatto a tempo a dire il titolo, si tratta di Miss Universe e, come avete notato, si apre con un intro di una voce automatizzata, come una voce telefonica di un servizio cliente di assistenza, e questo è, diciamo, il filo conduttore di questo disco, ovvero Nilüfer ha creato questo personaggio, la voce appunto di questa Miss Universe, rappresentante di questa azienda, di questa compagnia che gestisce la tua salute. Tu paghi, più ottieni, e gestisce la tua salute e piano piano, insomma, prende un po' il controllo della tua vita. E infatti il testo di questa parte parlata dice ci hai dato i tuoi dati, noi siamo qui per te, teniamo a te, ci preoccupiamo per te, in modo che non devi farlo tu. Ti è stato concesso l'accesso temporaneo alla prima fase del nostro programma preliminare e poi per continuare dichiara insomma se hai provato queste sensazioni, una sensazione di essere osservati, di essere seguiti, di sentirsi soli e in grande paranoia e nel cercare appunto l'approvazione da parte degli altri. E questo è stato appunto l'idea, e ne parleremo molto in questa trasmissione, che è molto molto corposa perché si tratta di un album corposo. Infatti oltre a quel pezzo introduttivo ci sono altri 4 intermissions con la voce di Miss Universe, e poi abbiamo sentito dopo il primo pezzo il singolone. In realtà l'album era già stato anticipato da un altro pezzo che è invece quello di chiusura a novembre, ma invece a gennaio è uscito questo singolo che abbiamo sentito, In Your Head, che appunto parla di questa sensazione straniante di mi immagino le cose, sono paranoica, posso sentire quello che voglio, posso fare quello che voglio, ma finché non lo dico a voce alta io non so se è reale. C'è questo discorso continuo su cosa è reale e cosa è no, e in quale momento di realtà noi siamo o se ci siamo mai. Vabbè, ne parleremo, ma cosa stiamo sentendo? È un po' insolito qui a Might FM sentire i Blink 182. E questo perché? Perché nella biografia di Nilüfer questo è stato un pezzo importante. Praticamente lei nasce, credo appunto intorno al 95, a West London, nel quartiere di Chelsea, quartiere più ricco del Regno Unito, da padre turco che appunto si è stabilito a Londra da Istanbul quando aveva una ventina d'anni. Infatti Nilüfer è un nome turco che significa giglio, invece di madre metà irlandese e metà Bajan, ovvero di Barbados. Entrambi artisti visivi, pittura, scultura, ma anche tessili, pitture a olio, acquarelli, qualsiasi cosa. Una famiglia con 4 figli, e la sorella più grande di Nilüfer, di 6 anni più grande, ascoltava appunto musica quando lei era bambina. La sorella ha 6 anni in più, con il suo iPod, le sue cuffie, e lei appunto ha cominciato a sentire questa musica, questo electric distorted kind of punk rocky pop guitar dalle cuffie della sorella. E appunto quello che si ricorda di più che le piaceva era appunto What's My Age Again, tratto da Enema of the State, ovvero non nemico dello Stato ma clistere dello Stato. E insomma, questo è stato insomma l'inizio della passione per la guitar music. Ma torniamo a Miss Universe, come ho detto un disco molto molto corposo, e questo è un pezzo successivo, si chiama Paralyzed. Could be that girl in another world. stiamo bene. E se Miss Universe per conto della Way Health, ovvero questa agenzia, questa compagnia che può migliorare la vita, che appunto sarebbe WWAY, cioè We Worry About Your Health, ci preoccupiamo della tua salute, appunto se questa azienda vuole migliorare la vita, dopo le canzoni invece appunto parlano di situazioni abbastanza incasinate, appunto questo pezzo a partire dal titolo Paralyzed, o di relazioni finite o che dovrebbero finire, o di incapacità di comunicare, o di anche separare, perché questo appunto è l'altro tema, la nostra vita online sui social media da quello che è reale, dalla vita di tutti i giorni. Infatti Niloufer dice, vedo mia sorella che esce, dico esci perché non mi ha invitato, e la sorella dice, più piccola, ma ti ho invitato su Facebook, ma tu Facebook non lo guardi mai, e lei dice appunto, ma invitami a voce. Una famiglia quindi molto artistica che l'ha sempre appoggiata molto nella sua passione per la musica, soprattutto la mamma, che poi è stata insomma un po' una proiezione perché lei avrebbe voluto essere un musicista. E quindi cosa fa? Porta un pianoforte a casa, quindi Niloufer comincia a studiare pianoforte a circa 6 anni fino ai 18 anni, però questa passione per la chitarra proprio comincia ad emergere prepotentemente intorno agli 11-12 anni. E anche insomma i gusti musicali si evolvono, comincia ad ascoltare i Strokes, i Cure e poi i Pixies, grande grande amore. E questo appunto coincide con la scuola media, e lei frequenta la scuola a Pimlico. Poi appunto era una scuola molto famosa per la sua sezione musicale, e un ex alunno di quella scuola era Dave Okumu degli Invisible, che proprio quando lei comincia a frequentarla ci torna come insegnante e diventa il suo insegnante di chitarra. È stato proprio appunto intorno al 2009, l'anno in cui The Invisible esordivano col loro primo bellissimo album omonimo. Infatti l'abbiamo vista anche dal vivo proprio quell'anno lì o giù di lì a Bruxelles al Botanique insieme a Mikachu and the Shapes, e quindi stiamo ascoltando un pezzo di quell'album, Monsters Waltz. In realtà il primo strumento che comincia a suonare poi a scuola è il violoncello, sempre per desiderio della mamma. Ma poi appunto comincia a suonare la chitarra, e perché voleva scrivere canzoni con la chitarra, quindi inizia appunto precocissima. La musica era sempre stata presente in casa, ma soprattutto musica classica o da parte di suo padre molta musica turca. però appunto dopo l'influenza della sorella più grande e del pop punk della insomma fine secolo, fine anni 90, inizio 2000, lei comincia a farsi i suoi gusti personali ed anche ad ampliarli con una grande passione per Amy Winehouse, per Nina Simone, e impara a suonare la chitarra con uno stile un po' di chitarra jazz, così crudo, senza fronzoli. Se lei dice non è che ho degli stili, dei chitarristi che ammiro, mi piace chi sperimenta, magari che la usi in modo un po' atipico, e forse probabilmente il modo in cui io suono viene considerato strano, forse appunto faccio le cose sbagliate, le faccio male, ma mi piace suonarlo così. Adesso ascoltiamo un altro pezzo, sempre tratto da Miss Universe, si chiama Angels. Una casa piena di arte, piena di quadri, ma anche piena di libri, una casa dalla quale non si sa se sia ancora uscita. Il suo desiderio appunto adesso arrivata a quest'età era di trovarsi una casa sua e vivere da adulta, ma evidentemente un ambiente in cui si trova molto bene, e anche appunto una casa piena di libri, libri che hanno fornito ispirazione per tanti pezzi già precedentemente pubblicati, e anche in questo caso l'ispirazione è presa da una serie di romanzi per l'infanzia di Mallory Blackman's Notes and Crosses. E spesso c'è questa dinamica del push and pull, del piano e del forte. Queste esplosioni catartiche che la accomunano anche ad altri artisti, come per esempio Mitski. Ma invece cosa stiamo ascoltando? Anche dei pezzi nuovi per me, perché per esempio io i Libertines non li ho mai ascoltati molto. Ma invece Nilüfer sì, e come. E infatti al suo insegnante di chitarra Devo Kumu, tipo la prima canzone che gli ha chiesto di insegnarle a suonare con la chitarra è stata questa, Can't Stand Me Now, tratta dall'album omonimo dei Libertines del 2004. Fitting for the starchy twisting tore, I love apart your light fingers through the dark. Quindi tipo lei questa qui l'ascoltava quando aveva metti 10 anni e qualche anno dopo voleva imparare a suonarla. E poi ha anche uno zio che ha uno studio di registrazione in Cornovaglia, no? Cosa che comunque aiuta. Infatti parte di Miss Universe, almeno 5 pezzi sono stati scritti o registrati in questo studio, dove comunque anche lei precedentemente è andata spesso a registrare o a lavorare con lo zio, insomma un po' a imparare il mestiere o a scrivere. E io dicevo, proprio in questo giorno, giorno della mancata Brexit, il 29 marzo, parliamo di un artista che invece è proprio il prodotto della Londra migliore, dell'incrocio di culture, di origini diverse e tradizioni, dove solo a Londra può uscire un certo tipo di musica come ne esce in questi anni. Penso a tanti artisti che possono avvicinarsi a Nilüfer Yanya, soprattutto per esempio per la delivery vocale, cioè nel modo di cantare i pezzi, King Cruel, ma anche Sanfa, anche Tirza o gli stessi XX. E ci abbiamo attaccato appunto dopo l'amore un po' più adulto, ovvero per gli Strokes, dal primo disco Is This It del 2001, Take It or Leave It. Infatti appunto tornando all'eccezionalità insomma di Londra anche all'interno del Regno Unito, il voto della Brexit è stato completamente diverso. Infatti c'è una mia cara amica, lei delle Barbados, ha detto: ah, se Londra fosse stata una nazione non sarebbe stata coinvolta in questa stupida follia della Brexit. Quindi gli Strokes tra le passioni diciamo giovanili, in tempi recenti invece grande passione per Mitski, Frank Ocean, per Blood Orange, anche se in un'intervista ha detto che questi ultimi giorni per esempio ha ascoltato anche molto Mos Def o Ariana Grande. Ma prima che finiscano gli Strokes, annunciamo già che il pezzo successivo sarà il secondo intervento, intermissions, interstitial, con la voce di Miss Universe, ovvero Nilüfer stessa, per conto della Way Health, si chiama Experience, col punto interrogativo, e si dice congratulazioni. Siete stati scelti per fare l'esperienza che si chiama Paradiso. As part of our What Will You Experience giveaway, please remember at all times, whilst moving forward in motion, don't look back and And don't forget to leave a review in the comments section of the Way Health website. What will you experience when you experience paradise? E ricordate che mentre vi muovete in avanti non guardate mai indietro e non dimenticate di lasciare una review nella sezione di commenti del sito di WayWayWayHealth. E il pezzo successivo, appunto, si chiama Paradise. E inizia così. I'll pay the price, but not for you. The birds appear, don't do it then. Behave every day, if only it made sense. You're getting hurt, you do this anyway. In paradise, price. But please don't leave. It's up to me. Don't descend. Behave every day if only it made sense. Not all the time, but every now and then I get that you're a mess. But I'm out my mind. I know they come in twos, but most of the time I do not see the. This is what it feels like. I'm not sure I feel it tight. Do without talk, go without taste. Celebration. Think it might take me a week to recover from this feeling. We're feeling through the darkness of graduation. La canzone si chiama Paradise, ma descrive situazioni proprio non paradisiache. E questo pezzo è di uno stile ancora diverso, no? Sembra quasi uno stile Sade, con la presenza del sassofono della sua compare sassofonista, band member Jazzy Bobby. Però a un certo punto arriva sempre il momento della chitarra e cambia totalmente il pezzo in questo suo suono indie soul con cui si è fatta conoscere. Questa capacità di cambiare registri all'interno dello stesso pezzo, anche a livello vocale, avendo appunto un arsenale vocale, è stato definito, molto vasto. Ma tutto si incastra perfettamente. E come dicevamo, uso piano forte, push and pull, tira e molla. it's loud as hell. Con tanto amore dichiarato per i Pixies non potevamo non metterle, essendo stata una band fondamentale. Lei ci è arrivata dopo, invece proprio questo disco è stato il disco dei nostri 18 anni. Si tratta di I Bleed da Dolittle, appunto dell'89. E tanti ricordi, tanto che oggi ho cominciato a chiedere degli amici: ma tu ti ricordi qual è stata la prima canzone dei Pixies che hai sentito? Allora Lorenzo mi ha detto Where is my mind? Olivia mi ha detto Come on Pilgrim, quindi il primissimo EP, quindi il primo pezzo del primo EP, quindi Caribou. E invece mi ricordo che gli amici grandi d'Archettoni studiavano a Bologna e tornarono a Fermo con una cassetta registrata da Radio Città del Capo che iniziava con Bone Machine da Surfer Rosa. E abbiamo scelto i Pixies e questo disco perché è appunto molto amato da Nilüfer. Che dopo aver, non so se ha lasciato la scuola, se aveva finito, era praticamente la scuola media, questa scuola che poi appunto, siccome diciamo che non era a livello degli standard nazionali per altre materie, insomma dove invece gli studenti avevano dei voti bassi, praticamente è stata rilevata, si è trasformata in un'accademia, insomma è stato eliminato, eliminata la sezione musicale. E però lei è andata avanti perché voleva studiare musica. E andando avanti, imparando più a suonare e a scrivere, perché lei dice sì, si impara anche suonando canzoni degli altri, ma io veramente ho iniziato a scrivere quasi da subito. Continua a studiare. E nel 2014 appare la sua prima traccia online nella sua pagina SoundCloud con due pezzi, e il primo, che poi appunto non è stato mai poi pubblicato in una release ufficiale, è questa Cheap Flights. And there is no one now, and I'm seeing through. Oh, oh, oh, oh. It's not my best stop. A volte un po' la chitarra ricorda anche un po' Daughter. And walk from here. These voices to mock. So can I leave my head out? Inizia anche a suonare dal vivo a 18 anni. E insieme a questa Cheap Flights, l'altro pezzo che appare su SoundCloud è Waves, che lei aveva fatto per un progetto del college. La cosa curiosa è che è stata rimbalzata, rifiutata due volte da un corso di laurea in popular music, e invece lei ha fatto un corso per artist development, per sviluppare la sua arte, e ha cominciato piano piano a farsi largo nei vari bar locali, quei locali dove c'è appunto l'open mic scene, la gente va lì, sale sul palco, fa la sua cosa, uno stand up comedy o appunto piccoli concertini, passando insomma a, sempre a palchi più prestigiosi, tra l'altro appunto scrivendo direttamente l'email a chi faceva la programmazione. Il caso ha voluto che il suo primo live fosse invece in uno dei locali storici di Londra, il Troubadour Earthcourt. Non so in quale anno si è anche trovata ad aprire per Mitski, ma non è che era collegata la cosa. Lei comunque gli era stata data la sua serata, il suo spazio, e quella sera dopo suonava anche Mitski. Appunto, una generazione di musicisti che ne sono molti, anche appunto quelli che hanno frequentato la sua scuola e che poi sono finiti ad essere i suoi più stretti collaboratori e membri della sua band, questa riscoperta anche di musica vecchia, se vogliamo, appunto molto jazz, molto soul. D'altra parte appunto è stato un rinascimento anche appunto anni fa in Inghilterra, specificatamente a Londra, e ritorniamo appunto a Dave Okumu, che è stato uno degli artefici di Devotion, il primo bellissimo album di Jesse Ware. Poi nel marzo 2015 appare il demo di un altro pezzo, Monsters Under the Bed, che appunto riveduta e corretta appare anche in Miss Universe, e l'ascolteremo più tardi. Sono due pezzi, quelli che sono stati diciamo recuperati dal passato o che sono nati un po' prima della realizzazione della maggior parte, insomma, del lavoro duro al disco esclusivo. E adesso ascoltiamo appunto un altro pezzo, Miss Universe, si tratta di Baby Blue. Already know you won't be there. If I'd seen that it wasn't a dream, would you be here? Baby, I'm blue. Don't tell me the truth. Tell me it's alright. Taking it slow. Try not to call. Try not to care. I'm taking it slow, try not to fall, try not to care. Don't look back, you've had enough of all my love. I guess it's just too bad, I'm moving on now. Qui nella melodia vocale sento un po' di XX. All'interno dello stesso pezzo si attraversassero delle ere. Forse questa è anche una generazione che va appunto anche a riscoprire delle cose oscure dell'era disco degli anni Ottanta. Jazzy Bobby, appunto la sua compare braccio destro, ha fatto un remix di uno dei più grandi successi degli Spargo. E arriva la chitarra. E tante piccole cose che portano tutto al presente. Un disco che ha tanti registri musicali, questo anche grazie al fatto che ci sono stati tanti collaboratori, non perché magari lei ha poche idee, forse perché ce n'ha anche troppe, ma tanti collaboratori in questo disco, appunto per ottenere il risultato migliore per ogni canzone. È questa la sua filosofia. Ma arriviamo alla fine alla pubblicazione di un primo EP nel 2016. È un 12 pollici edizione limitata di colore rosa con due tracce, Small Crimes, che è questa, e poi Keep on Calling. What to find I keep, I was supposed to set an example, but I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. Words will chain me after they let me loose and realize, or maybe they are small crimes, but some things I just couldn't do. Tra King Cruel e XX. I gave it up, would I still be a thug? Don't choose. E contemporaneamente su SoundCloud appaiono anche rispettivi remix di questi pezzi. Uno che per sua dichiarazione è il suo preferito, a firma di Bullion, e poi invece Keep on Calling remixata da Vasco. To be human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe there are small crimes, but some things I just couldn't do. E siccome lei ha dichiarato che è il suo remix preferito, noi ce l'abbiamo attaccato, ovviamente. È molto figo. E primo EP Small Crimes esce per, è proprio la prima uscita della Blue Flowers Music, un'etichetta che esiste tuttora e che ha pubblicato i primi tre EP usciti prima di Miss Universe, e tutto quello che ha fatto fino al 2019 Westerman, un giovane autore londinese che abbiamo ascoltato appunto con un pezzo bellissimo, Confirmation, nella classifica, insomma nelle migliori canzoni di Pitchfork del 2018, che ascolteremo più tardi. E lo stesso 2016 compare una cover in una compilation curata da questo stesso Bullion, di cui stiamo ascoltando il remix Small Crimes, in una compilation al titolo Extraordinary Renditions. Appunto, al primo ascolto Small Crimes ricorda King Cruel, di cui è coetanea, anche se King Cruel è stato precocissimo, appunto in questa delivery vocale un po' trasandata, un po' casuale. Ma torniamo ad un pezzo di Miss Universe. This is a temperature control announcement. You are now entering a high temperature zone. It is advised you wear the gloves and goggles provided at all times. Failure to do so may cause body parts to melt. Way Health cannot be held accountable for any injuries or fatalities that may or may not occur. Thank you for your cooperation. E il messaggio Miss Universe per la Way Health è appunto come alla fine della pubblicità dei farmaci, dove tutto viene velocizzato al massimo. E si chiamava Warning e dice: attenzione, siete entrando ad una zona ad alta temperatura e quindi dovete mettere i guanti e gli occhialini che vi sono stati dati, perché se non lo fate alcune parti del corpo potrebbero sciogliersi e Way Health non è responsabile per qualsiasi incidente, ferita o fatalità, ovvero morte, che potrebbe capitare. E ovviamente se c'è un avviso relativo alla temperatura, il pezzo che stiamo ascoltando dopo si chiama Heat Rises, ovvero il calore sale. Questo pezzo c'è un'ispirazione dichiarata, ovvero Millionaire di Kelis, con la partecipazione di Andre 3000 degli Outkast, pezzo del 2003, ma io, non conoscendo quello, questo pace, questo ritmo e anche la voce nel registro più alto in falsetto mi ricorda invece moltissimo i Chairlift. Tipo Amanamonesia, come si chiamava? Peccato che si sono sciolti e io l'ho scoperto l'altro ieri. Tra i tanti collaboratori io pensavo di trovarci anche Prezzemolino, mica Levi, ma no, però Devo Kumu invece è legato a mica Levi, infatti avevano suonato insieme a Bruxelles. E dicevo, questo suono del primo EP, appunto un suono che magari non, cioè, sembra strano per noi, però appunto ai giovani londinesi questo jazz, blues, interessa molto. D'altra parte appunto Londra è diventata il fulcro anche del ritorno del soul, infatti cosiddetto neo soul. Ma abbiamo nominato prima Westerman, che dopo 2-3 singoli e EP, oltre anche la bellissima Confirmation che abbiamo citato e suonato già qui a Mad FM, è appena pubblicato un EP con 4 pezzi che si chiama Arc, e il primo è questa Albatross. Anche qui ci sono tantissimi suoni del passato, un po' di quel pop, art pop, un po' sperimentale tra 70 e 80. E mi sembra che tutti questi giovani musicisti siano poi dei grandissimi virtuosi, come gli stessi collaboratori e band members di Nilüfer. Madness. If I say we don't have to be the same, we're cracks in the framework. So here I am, conflicted. Infatti non so, sarà stato l'imprinting della scuola di Pimlico, appunto anche altri musicisti, ex compagni di scuola, collaboratori di Nilüfer nella loro attività solista, fanno musica ancora più retro jazz soul, sia Jazzy Bobby che Lucy Liu, ascolteremo dopo. Però appunto invece il suono di Nilüfer diventa altro, appunto per la presenza imprescindibile della chitarra e anche di una tendenza al pop, appunto una versione più contemporanea. E il suo filtro appunto si può sentire applicato a questa cover che avevamo annunciato nella compilation Extraordinary Renditions, e appunto Hey dei Pixies. Sicuramente impresso il suo marchio, beh ovviamente questo piccolo assolo non si può modificare in nessun modo. E questo è un pezzo che ancora esegue in quasi tutti i suoi live. Abbiamo detto un'attività live iniziata a 18 anni, è già molto navigata a questo punto di vista. Da anni suona proprio in tutto il mondo, da ultimo ha aperto per Sharon Van Etten, che noi a quest'ora tra una settimana staremo vedendo a Berlino, vero? Appunto aperto per Sharon Van Etten nel tour americano e canadese di febbraio e marzo, adesso appunto invece tra marzo ed aprile farà qualche data nel Regno Unito con Westerman. Invece lo scorso novembre ha aperto per gli Interpol, sempre nel tour Gran Bretagna in Europa, così. Quindi mano a mano con un EP all'anno, dei singoli tratti da questi EP e dei video, anche la parte dei video è molto importante, si è cominciato a parlare sempre sempre di più e con ragione, quindi tutto questo hype è stato assolutamente giustificato, arrivando anche appunto ad essere programmato da BBC e a entrare nella lista del Sound of 2018, del 2018, dalla BBC, quindi proprio quasi consacrata. E io l'ho conosciuta appunto grazie alla classifica di Pitchfork del 2017. Ma parliamo, grande amore di Niloufer e Mitski, hanno già suonato insieme o non insieme, è diciamo un artista con cui lei vorrebbe collaborare, però mentre Niloufer si dimostra molto brava a collaborare con gli altri, io Mitski a collaborare con gli altri proprio non me ce la vedo tanto, e visto che c'è questo amore di condiviso per i Pixies evidente in tutta la musica di Mitski, dopo la cover dei Pixies fatta da Niloufer abbiamo messo i due pezzi più Pixies del lodatissimo, così, trionfatore delle classifiche dell'anno del 2018, Be the Cowboy, ovvero Why Didn't You Stop Me, e poi Washing Machine Heart, Mitski. Visto che Be the Cowboy è stato il disco trionfatore insieme a Dirty Computer di Janelle Monáe nelle classifiche di Album of the Year del 2018, io sono sicura che Niloufer sarà in altissimi posti delle classifiche di fine 2019. E infatti per Metacritic sono state 17 recensioni finora, con una media del 8,5. Flash Music, The Line of Best Fit 9, The 4-5 8,5, Pitchfork 8,3, Best New Music, poi Paste Magazine 8,1, altri tipo 12, 8, voto più basso 8. Da Observer, Pop Matters, Enemy, All Music, The Independent, The Skinny, Mojo, Q-Mag e Uncut, The Hawaii Magazine, Exclaim, il media canadese e The Guardian. Comunque, gira gira, insomma, ritornano dei nomi. Miss Universe appunto ha visto la presenza, le collaborazioni a diversi livelli di tanti professionisti molto quotati, che voglio dire, vista diciamo l'aspettativa, insomma, anche si sono stati anche trovati i mezzi per fare questo disco e pagare le persone. Ma appunto la persona che l'ha aiutata, diciamo, a tenere tutti insieme è stato chi ha mixato il disco, ovvero Nathan Boddy, che noi abbiamo già trovato come uno dei due produttori di Song of Praise dei Shame, che lei sì e loro sì sono amici di Mika Levy. Che è amica di Devo Kumu, degli Invisible, con cui, non l'abbiamo detto, ha co-scritto, e poi appunto i collaboratori poi sono quelli che aiutano nella scrittura, che ovviamente è soprattutto sua, e lui ha fatto Heat Rises. E a Miss Universe siamo tornati con Melt. Questo potrebbe essere un pezzo di Jesse Ware. I bet your brain cells won't last. I bet they cling to the trash. I hope you melt on the way back to your place. Because the sunshine don't last. I help you take out the trash. Fondamentalmente, ovviamente, lei scrive i testi, suona la chitarra, a volte anche le tastiere, e scrive la musica con la collaborazione di questi professionisti che poi appunto diventano produttori del pezzo, fanno gli arrangiamenti o la programmazione delle, non so, della batteria elettronica, oppure suonano appunto altri strumenti. E se Devo Kumu ha partecipato solo a Heat Rises, questa Melt insieme a Angels e insieme a Paradise è stata o co-scritta o prodotta, insomma, da Holly Barton Wood, professionista londinese, produttore, tecnico del suono. Che ha lavorato a questi pezzi insieme a Joe Dworniak, un bassista inglese che appunto ha scritto questi due pezzi con Nilüfer. Una presenza fondamentale è stata quella di Will Archer, che suona con lo pseudonimo di Wilma Archer, di cui Nilüfer era fan, e lui aveva questi pezzetti di musica molto appunto stile Muzak, musica d'ascensore, un po' jazzata, un po' così vaga, proprio musica da sottofondo, e lui ha scelto dei pezzi di musica e lei se li ha messi sul computer, ha detto ma potrebbero andare bene per quest'idea che c'ho in mente, e questa idea appunto poi è diventata quella della voce di Miss Universe e di Way Elf. Per cui tutta la musica di questi cinque stacchetti sono ad opera di Will Archer, e ascolteremo più tardi un suo pezzo. She's been lost at sea. Though he swam down to the cavalry, he felt surprised her. Ma siamo arrivati al 2017, nella discografia di Nilüfer c'è il secondo EP. Stavolta era un 12 pollici color arancione e si chiama Plant Feed. e contiene tre pezzi e io li ho mixati tutti e tre. Questo primo si chiama The Florist. Anche di questo pezzo, quasi tutti i pezzi, esistono dei video fatti da questo collettivo, che poi praticamente è sua sorella e qualcun altro, a volte appunto a firma di sua sorella come Molly Daniel, a volte come collettivo Energy Force. E la protagonista dei video è sempre Niloufer, che però dice voglio smettere di farlo perché è una distrazione. Però da una parte gratifica un po' il tuo ego, no? All of love. Were you in a gold cage? Were you in a daze? Ma il pezzo principale di questo EP, uscito anche come singolo, è questa Golden Cage. Molto più jazzy R&B con sassofono. But a smile along your face. Ain't it strange after everything changed? If you back that place. The same, I was still. Sax suonato da Jazzy Bobby, nel caso dei suoi due collaboratori. Jazzy Bobby io me lo immaginavo un ragazzo e invece Lucy Liu una ragazza, no, il contrario. E il terzo pezzo, forse il mio preferito, è Sliding Doors. Anche qui un po' Daughter, un po' XX. Hide you, seek whatever you find. You keep, I can't stay here in the dark. I can keep on my mask, but you're so. E quindi già con questo secondo EP, Plant Feed, si fa conoscere sempre di più. E quindi col passare del tempo, perché poi è uscito un altro terzo EP con due pezzi clamorosi che ascolteremo, e il fatto della, insomma, del suonare tanto dal vivo e questo buzz costante, no? di parlare di qualcosa, insomma, che piace, che elettrizza. Tutto questo poi alimentato da comunque uscite regolari di un EP all'anno, poi magari un pezzo che anticipa l'uscita dell'EP, quindi riempie, insomma lei è sempre stata presente, diciamo, sempre apprezzata, tanto che ci sono state create grandi aspettative, però sono state compensate, ricompensate. Anche se lei dice che, insomma, l'attività live, sì, all'inizio ti preoccupi di suonare bene, non sbagliare, poi ti preoccupi che il tuo pubblico colga le tue intenzioni, quello che dici, dice adesso è diventato normale ma non naturale, perché poi comunque c'è la pressione della performance, comunque la sente ancora, noi speriamo di vederla tra qualche mese. Appunto, tornando ai suoi collaboratori, Lucy Liu, Your Boy Liu, si presenta nella sua pagina Facebook. ovvero Luke Bower, bassista della band di Nilüfer Yanya, ha pubblicato nel 2018 un EP, Lucy Liu Volume 1. Questo pezzo è proprio soul jazz, si chiama Outlines featuring Chelsea Carmichael. Sitting in the corner, eclipsed by your poison. E ce lo teniamo come sottofondo per continuare appunto a parlare degli stacchetti di Miss Universe, che appunto vogliono rappresentare questa presenza ormai nella nostra vita, che un po' lei la definisce creepy, scary, funny, nel senso che sì, fa un po' paura, un po' inquietante, no? Però appunto fa anche un po' ridere, quindi ha scelto questo approccio comico per parlare appunto di paranoia, di ansia. E invece questi stacchetti presentano appunto il concetto, il progetto, per cui lei prova anche fastidio, no? Ma anche per il tono sempre un po' accondiscendente di queste voci. Questa entità che ti vuole controllare la vita, soprattutto la salute in senso lato, e quindi Way Health gestisce la salute. We worry about your health, ci preoccupiamo noi della tua salute in modo che non debba farlo tu. È un escamotage narrativo che simboleggia quindi le storture della nostra società infarcite di paranoia, di ansia, questa ricerca di siti, di app che ti risolvano la vita. E poi lei in un'intervista parla appunto anche il paradosso dei social media, della nostra vita online, la nostra vita offline. Dice: magari tu non hai il coraggio di rivolgere la parola, di fare la domanda a una persona, però invece la stalkeri online. E eccola Miss Universe. At Way Health, safety is one of our top priorities. If you feel unsafe at any point, please contact one of our authorized representatives. To ensure the safety of others, help us help you by completing a quick online survey. In my last experience, I felt A. Extreme pain. B. My first impression was sparkle. C. There was no noticeable discomfort. D. I felt nothing. A Way Health, la sicurezza è una delle nostre priorità. Se in qualche momento non vi sentite sicuri, contattate uno dei nostri rappresentanti. E per aiutarci appunto a capire, compilate il nostro questionario online. Nella mia ultima esperienza ho sentito A. estremo dolore, oppure non ho avuto nessun fastidio particolare, oppure non ho sentito niente. E la parte finale cantata dice: quindi Dio aiutami, perché non è salutare non sentire niente, cos'è che dovrei sentire? E poi arriva Safety Net, ovvero la rete di sicurezza. Questo inizio di musica mi ricorda un po' Why di Michael Jackson, se si chiamava così. È anche un po' Marvin Gaye, un po' Sexual Healing. E questa invece è stata scritta insieme a MT Hadley, un altro cantautore che secondo me suona anche nella sua band, anche se non ho trovato prova di ciò. someone, I'm not trying to be someone, I'm not trying to be someone, I'm not. So stop trying to be someone, so stop trying to be someone, so stop trying. E tra tutti i collaboratori che abbiamo nominato, la ciliegina sulla torta è stata John Congleton, artefice di St. Vincent come album, vabbè, ovviamente, cioè anche Annie ha fatto il suo, però insomma, per lui sa lavorare con le artiste, infatti è stato anche insomma un po' l'artefice del nuovo suono di Remind Me Tomorrow di Sharon Van Etten. E forse chissà se è stato questo contatto che ha favorito il fatto che Niloufer abbia aperto per il tour americano e canadese Sharon, chissà. E insomma, arriva John Congleton, mette il suo zampino sia nella scrittura del singolone In Your Head che abbiamo sentito all'inizio, che nel rifacimento definitivo di Monsters Under the Bed, che invece appunto è un pezzo più vecchio, già che aveva scritto quando aveva 15-16 anni. E giusto per non sbagliare, si porta dietro per suonare la batteria in questi due pezzi Joy Varonker. Joy Varonker, un session musician prestigiosissimo che ha sostituito Bill Berry nei Ram, ha suonato in quasi tutti i dischi di Beck, ha suonato dal vivo in studio Smashing Pumpkins, uno dei membri di Atoms for Peace con Nigel Godrich, Tom York e Flea, insomma un a caso. Ma appunto queste collaborazioni numerose, queste varietà di stili, non vogliono dire affatto che Niloufer non abbia un'identità, ma proprio lei segue la strada di ogni canzone che ha un'identità a sé. Quindi una giovane autrice, artista multiforme, versatile, capace quindi di lavorare con gli altri per il miglior risultato possibile, per una scrittura che è in costante evoluzione, quindi sarà molto interessante sentire dove andrà nel tempo. E adesso arriva un singolo uscito sempre nel dopo l'estate del 2017, e quindi è stato questo il primo pezzo con cui io l'ho conosciuto, con questo inizio un po' Nirvana, un po' Cat Power, e questo pezzo è finito nella classifica delle più belle canzoni dell'anno del 2017 e è meravigliosa, Baby Love. Sono queste le canzoni che lei sente più sue, cosiddette sparse, ovvero spoglie. La chitarra, la sua voce, qualche elemento in più, qualcosa che succede. E adesso succede in questo synth un po' nostalgico che emerge. Just E quindi secondo EP esce nell'estate 2017 e già lei a settembre-ottobre se ne esce con questo pezzo, poi contenuto in un EP, stavolta vinile rosso, visto che appunto prende il titolo da una frase di questo pezzo, ovvero Do you like pain? Ti piace il dolore? E questo è stato il nostro primo incontro e innamoramento per Niloufer. Adesso arriviamo a quello che è stato invece il terzo singolo, possiamo dire. Video singolo, si tratta veramente di un video di animazione con il testo scritto appunto con il carattere da dei primi computer, da videogiochi, no? Come il titolo Miss Universe sulla copertina, bruttina direi, tra l'altro due foto direi prese dal video di In Your Head, girato negli Stati Uniti, credo in qualche zona più o meno desertica. Questa è Tears. Che è stata diffusa a 20 febbraio, quindi un mese prima dell'uscita del disco. Il tentativo riuscito in questo pezzo è fare un pezzo più pop possibile, un pop anni 80 o un R&B anni 90. E l'ispirazione per questo pezzo è stato un pezzo che ha avuto abbastanza successo nel Regno Unito nel 2017 ad opera di una cantante che si chiama Fabiana Palladino. Il pezzo si chiamava Mystery. E lei e Holly Barton Woods ascoltavano questa Mystery. È caratterizzata da una traccia di synth e poco altro, che non cambia quasi mai, che tiene su il pezzo, con, appunto, con un grande suono stile anni 80, e quindi loro hanno voluto ricreare una cosa simile con un synth che appunto reggesse la canzone. E poi dopo però dice però io alla fine ci ho dovuto mettere la chitarra, perché insomma, cioè, nella testa continuavo ad avere gli Weezer e ho dovuto mettere queste due cose insieme. E siccome ci stava bene, abbiamo deciso di mettere in scaletta More, questo pezzo l'abbiamo già sentito nella classifica delle migliori canzoni dell'anno 2018 per Pitchfork, è Heaven's Only Wishful, cantautore canadese, anche lui speriamo di vederlo presto. E però, visto che le cose da dire sono tante, perché io parlo sopra le canzoni, il titolo è stato detto, se vi piace lo potete trovare. Anche appunto anche lui tra indie e synth pop. Close your eyes and see it through. Ce lo teniamo per dire altre cose. I can't Appunto, sarà molto interessante, dicevo, vedere dove andrà la musica di Niloufer Yagna con il tempo. Poi appunto le piacerebbe collaborare con Miski, ma anche con Frank Ocean. Infatti le è stato anche chiesto se la sua scrittura è cambiata anche nel corso dei primi anni degli EP. E lei ha detto che no, in quel periodo non è cambiato più adesso, perché insomma a quei tempi tu scrivevi, c'avevi solo voglia di scrivere, registrare, pubblicare, poi quando ti rendi conto che la gente veramente ascolta i tuoi dischi, allora sapendo che hai un pubblico, magari il tuo modo di scrittura cambia e quindi sta evolvendo e cambiando, soprattutto adesso. E in una intervista con Bob Boylan per la National Public Radio americana, dove lei aveva portato come pezzo che le piace molto Charcoal Baby di Blood Orange, che lei diceva non sapevo neanche che fosse inglese, potrebbe appunto fare come Deb Hines, che aveva, lei è conosciuto come Blood Orange, ma che ha iniziato facendo cose diverse con il Test Icicles e con Lightspeed Champion, che lei non conosceva neanche, quindi magari nel giro di 10 anni le piacerebbe anche proprio vedere dove andrà la sua musica. E poi citando appunto la sua sorella Molly Daniel, con cui concepisce tutti i video e l'artwork, con lei ha anche fondato un collettivo, un gruppo, non è un ente ufficiale, non è una charity, non è un ONG, ma con sua sorella, anche con sua madre, artista, ha formato questo collettivo che si chiama Artists in Transit, che opera ad Atene dal 2010 e che appunto lavora con bambini di famiglie di rifugiati o profughi, facendo appunto dei seminari artistici o facendo della bigiotteria o dei quadri, delle opere, operando prima nei campi profughi e adesso invece in squat, in posti occupati dove non c'è nessuna autorità, nessuna struttura, quindi autogestione totale, e lei poi porta questi lavori, li riporta in patria. Riporta questi lavori in Gran Bretagna anche per far conoscere una realtà che appunto sembra molto lontana, e c'è anche tanta disinformazione insomma sulla realtà dei rifugiati, cioè, però è straniante, c'è cioè, proprio questa dissociazione, perché dopo quando io torno alla mia vita di tutti i giorni queste cose scompaiono un po', no? Però, insomma, assolutamente lodevole questa sua attività. E dicevamo Do You Like Pain, poi esce nell'aprile del 2018 insieme a quest'altro pezzo meravigliosissimo ancora di più, che finisce nella classifica dei pezzi migliori del 2018, Thanks for Nothing. pensate che finisca così, che sia tutta così? Fine non ha mai suonato così dolcemente. Thanks for nothing lasts forever. Grazie per niente dura per sempre. E oltre a queste due gemme, Baby Love e Thanks for Nothing, Do You Like Pain EP conteneva il remix molto bello di Thanks for Nothing, opera di Jazzy Bobby, T4N si chiama, sempre nel suo personalissimo stile indie jazzy soul. E poi un'altra frase che ho trovato, come Nilüfer descrive a Way Out, cioè tu ti iscrivi, paghi una quota, loro risolvono tutte le tue necessità di alimentari, no? Di diete, e dopo passano ai farmaci e poi magari puoi ottenere un organo migliore. E poi comunque di colpo comincia a diventare un po' sinistra questa cosa, perché dai sempre più di te, perdendo il controllo su di te, ma poi a quale scopo? Questa appunto è la cultura del self-improvement, automiglioramento, questa costante pressione a migliorarci, a migliorare la nostra dieta, a migliorare le nostre relazioni, a migliorare la nostra socialità, a regolarizzare il nostro ciclo mestruale. E eccolo quel pezzo che era già stato pubblicato nel 2015 su SoundCloud, che è stato ripreso in mano anche con l'aiuto di John Congleton e che era scritto appunto a 15-16 anni. Monsters Under the Bed, i mostri sotto al letto. Your sense of humor and your I'm not okay, yeah, yeah, such a shame. Never felt so good. They all think I'm someone, hey, hey, yeah, yeah, not myself. Sto bene. Che peccato però, non mi sono mai sentita così bene. E tutti pensano che io sono qualcun altro, che non sono me stessa, ma la sensazione è bella. Ma una cosa che non abbiamo detto, che invece diciamo sempre tra le prime, è l'etichetta per cui esce. È un nome che io in realtà non avevo mai visto, è la ATO Records. Di New York, fondata nel 2000 da Dave Matthews, della Dave Matthews Band. È l'etichetta di Hooray for the Riff Raff, di King Gizzard and the Lizard Wizard, di Midlake, di Natalie Pruss, di Primus. anche appunto un nome simpatico, perché sarebbe ATO Records, sarebbe According to Our Records, dove appunto c'è il gioco di parole tra records come dischi e appunto la frase in base alla nostra documentazione, in base ai nostri registri, archivi eccetera. Never felt so good. E infatti Do You Like Pain EP viene sempre pubblicato per la Blue Flowers Music come i due EP precedenti, ma contemporaneamente, forse per il mercato americano c'era già stato questo contatto con la ATO, esce anche per quest'altra etichetta, che poi è diventata la sua etichetta almeno per questo Miss Universe. Però insomma, se è riuscita a fornirle insomma quei mezzi per avere tutti questi collaboratori, insomma mi sa che forse è meglio se ci rimane con According to Our Records. Dicevamo, tra questi collaboratori, l'apporto fondamentale di Will Archer, che ha fornito le basi per gli stacchetti di The Way Health, ma che ha anche scritto, suonato e coscritto Paralyzed, è un pezzo che non abbiamo ancora sentito, sentiremo tra poco, e che è il mio preferito, tra i miei preferiti, insomma molto particolare. Abbiamo detto che ha pubblicato non tantissimo, prima con lo pseudonimo Slime mi pare, poi come Wilma Archer, e questo è uno dei pezzi pubblicati nel 2018, questa Cures and Wounds, molto bella, e che è in procinto di pubblicare ad aprile invece un album, una collaborazione con un rapper losangelino, Pyramid Vritra, infatti è a firma Wilma Vritra, un rapper del collettivo Odd Future. Archer ha aiutato appunto a dare corpo a questa idea di creare questa voce narrante per un disco che appunto fa un po' l'analisi del presente, il nostro modo di interagire, oltre appunto ispirazione presa dai libri, film, ma più in passato, e anche della solitudine della nostra vita, sia online che offline. E questa è Sooner or later, the unordained. Sooner or later, they'll come to erase her, they'll come to our savior. Sooner or later, I can't look at you standing there, all your problems solved. One is getting cold, why you getting low? Sympathy. Can't recognize, I can't look at me, 'cause it brings me down when I hang around. Pure shame, it's like we already gave up meaning and blame. It's getting harder to wake up, will it deepen some way? Is it alright, I hate her? Sooner or later, they come to erase her. Anche questo testo è molto ermetico, non riesco bene a capire di cosa parla, forse di una gelosia nei confronti di un'altra, non so. Appunto cerchiamo qualcuno che ci risolva la vita, perché è generalmente abbastanza incasinata. Quindi è un album che parla appunto anche del nostro, della nostra solitudine, sebbene siamo sempre circondati o osservati. Questo mi ricorda appunto il concetto che era dietro Isolation Culture di Sclenziness. Quindi è un discorso che passa dal personale all'universale, per un'azienda che più paghi più ottieni, e ovviamente loro mano a mano hanno sempre più il controllo sulla tua vita, che è una cosa che succede già, ma non ci pensiamo, ormai siamo abituati, non la mettiamo più in discussione. Ma fino a che punto? Fino a che ti dai il permesso per cambiarti parti del corpo, del cervello magari? Forse questa di Unordained rappresenta appunto il suono che vuole esprimere quello che ha in testa. Appunto, le canzoni che sente più sue sono quelle più spoglie. Anche se adesso ha un approccio alla registrazione che è più sperimentale, vuole più provare diverse possibilità, nel senso non è più così protettiva nei confronti della sua idea originale, della sua scrittura, che poi dice non so neanche cosa sono, cos'è, com'è, poi anche chi se ne importa. E invece questo pezzo che stiamo ascoltando è un pezzo di Jazzy Bobby, una stangona bionda, la sua compare. Loro si sono conosciute a scuola quando avevano 12 anni, adesso appunto sono più di 10 anni che fanno musica insieme. Appunto Jazzy Bobby me lo immaginavo appunto un ragazzo un po' meticcio, invece no, una stangona bionda. Questo pezzo si chiama F-CA, che Bob Boylan della NPR ha detto non so se è un accordo o se è qualcosa che va censurato, vedete voi. D'altra parte per noi F-CA facile, no? So intense when the blood inside your veins, it tingles, feels so high. Sensations that make you so strange. E invece il titolo, no? Sembra una cosa banale, Miss Universe. È un titolo che è venuto fuori dopo un lungo processo, quasi alla fine, dopo la registrazione, dopo la realizzazione della copertina e tutto. E che appunto rappresenta il contrasto tra la realtà delle parole, dal vero significato delle parole, e invece il potere evocativo e simbolico dei titoli formati da quelle parole. Quindi Miss Mondo, Miss Universo, cioè non esiste, è impossibile, cose che non esistono davvero. Però quando appunto queste parole vengono messe insieme per dare appunto un titolo, nella nostra testa diventano un di più, come una metafora. E appunto è venuto fuori in un'intervista come i titoli e le descrizioni delle opere esposte in un museo, in una galleria, che a volte sono più interessanti dell'opera in sé. E poi anche la sua attività live, dice, era un po', insomma, sembrava una cosa inventata, una cosa letta sul libro, il fatto che io quando ancora non sapevo suonare la chitarra, c'erano dei gruppi che erano molto famosi nella scena alternativa come Fleet Foxes e Broken Social Scene. 10 anni dopo io mi trovo a suonare prima di loro, andare in tour con loro, sembra appunto una cosa irreale, soprattutto perché appunto lei si sente la stessa persona, la ragazzina che le ascoltava, adesso appunto va in tour con loro. e quando appunto ha iniziato a suonare la chitarra i suoi riferimenti della musica che ascoltava erano soprattutto maschili e non trovava magari nel suo presente dei modelli femminili se non nei decenni precedenti, mentre appunto adesso ci sono tante sue coetanee appunto decenni dopo di questa nuova guitar scene, mentre questa musica di Jazzy Bobby a me ha fatto venire in mente, sempre legato al discorso della scena multiculturale londinese, Tirza, che insieme a Mika Levi ha creato il bellissimo Devotion, anche questo uno dei dischi migliori del 2018. In occasione della puntata su Club to Club e poi la title track l'abbiamo suonata nella trasmissione dedicata ai migliori pezzi del 2018, questa è Holding On. E questo Miss Universe è appunto il significato simbolico di parole messe insieme in un titolo, in una frase, è anche la caratteristica dell'ultimo pezzo che chiude il disco che ascolteremo tra poco, perché sì, siamo arrivati alla fine. Un pezzo che è stato coprodotto appunto da Jazzy Bobby e da Lucy Liu, che hanno prima registrato nello studio dello scantinato del padre di Jazzy, che è anche lui un musicista, prima un demo, poi diversi tentativi e versioni, altri demo in altri posti, e poi il pezzo continuava a cambiare anche perché lo arrangiavano mano a mano che lo facevano dal vivo. Poi hanno capito che dovevano registrare la fine con tutta la band, e perché l'arrangiamento funzionasse davvero. E quindi c'è questo amore per il processo di creazione e realizzazione, tentare e trovare la miglior soluzione possibile senza accontentarsi facilmente dei primi risultati, però un lusso che poi anche per motivi di tempo e risorse non puoi sempre concederti, soprattutto quando stai lavorando ad un disco. Infatti questo era il pezzo che hanno iniziato a scrivere un paio d'anni fa e che quindi poi ha trovato la sua forma completa già appunto a novembre 2018, perché è stato appunto il primo pezzo che poi ha anticipato l'album, e si tratta di Heavyweight Champion of the Year, appunto il campione dell'anno di pesi massimi, anche questo appunto queste parole che messe sotto forma di titolo diventano molto evocative. Poi ultimissime cose, Miss Universe è una narrazione fantascientifica ambientata tra un futuro immaginato e un passato ambiguo, che con un umorismo macabro prende di mira, adesso appunto sono cose che mi sono scritta da degli articoli molto interessanti, la vacuità rapace della cultura appunto dell'automiglioramento. E il suo arsenale vocale, appunto, il Contemporary London Speak Sing, questo modo un po' strascicato di parlare con le vocali mozzate, le consonanti dure, poi invece i ruggiti, i singulti stile Strokes, e poi invece lo stile soul sensuale preso da Winehouse e Nina Simone, e poi il suo falsetto da coro. E siamo arrivati alla fine del disco con l'ultimo stacchetto di Miss Universe che si chiama Give Up Function. Hai completato la fase 1 del programma di Way Health. E premi il cancelletto, il tasto del cancelletto verde sul tuo device per continuare e passare alla fase 2 per sentirti meglio e probabilmente vivere più a lungo. No, scusa, la funzione selezionata non esiste più. Per favore, rinuncia o riprova. Per favore, rinuncia, rinuncia. E questo però, appunto, lei dice, non è una cosa negativa, non è qualcosa di negativo o deprimente, perché a volte va bene mollare il colpo, come si dice. E siamo arrivati appunto a Heavyweight Champion of the Year. La fine di questo disco, Miss Universe, che è stato ispirato da Joni Mitchell, Kelly, Frank Ocean, Angel Olsen, Edgar Allan Poe e soprattutto da Brave New World di Aldous Huxley, una delle più classiche distopie, insieme a 1984 di Orwell. Però insieme anche manuale di istruzione per la programmazione informatica degli anni 80, Black Mirror ovviamente, e con gli annunci su YouTube sulle varie mode passeggere legate al fitness, perché tutto ti suggerisce che dovresti fare qualcosa per migliorarti, ti suggerisce che avresti bisogno di prendere più supplementi vitaminici, il tuo feed di Instagram ti suggerisce in maniera passiva-aggressiva che dovresti provare a fare yoga, e poi le app che ti promettono di semplificarti qualsiasi cosa, dalla consulenza finanziaria alla guarigione di complesse afflizioni mentali. E quindi Way Health promette di curare il tuo senso di inadeguatezza, solitudine e paranoia, sostituendoli con piacevoli esperienze, uso del termine sempre più presente, infatti sono anche le Airbnb Experiences, e ti vengono proposte da questa voce, Miss Universe, che è un po' Siri, un po' Alexa, un po' al 9000, è appunto generica voce registrata dei servizio clienti. Questo disco è appunto tutto un tira e molla, e che si chiede appunto cos'è reale. E questo è un pezzo appunto che parla dei propri limiti, della barra che ti fissi, del limite che non vuoi superare, anche un po' per proteggerti. From all these dreams, lack of sleep, I'm still wired. E per esempio anche lei deve abituarsi alla realtà di essere intervistata, a parlare della sua vita, quasi fino a quando le fanno male le mascelle, però con un senso di dissociazione, perché appunto devi abituarti che ciò che finora vedevi come una passione, sì, ma che vedevi appunto irreale, il tuo ruolo, diciamo, di personaggio pubblico che riceve attenzione, è diventata la tua realtà, che però porta con sé, lei dice, anche un po' la sensazione un po' fastidiosa di essere diventato un prodotto della, per la industria musicale, quindi anche l'attività live, sì, molto gratificante, ma appunto può essere anche un po' stressante per le aspettative, la pressione. Eccolo questo finale trionfale che hanno registrato, poi in un giorno hanno affittato uno studio e con tutta la band hanno registrato il finale di questo pezzo. Miss Universe, Nilüfer, Yanya. Questa era Mighty FM. Ciao, la Claudia, Mighty Mau.